Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Di nuovo parleremo oggi molto di Italia e di governo. Non tornerò se non in maniera breve sul tema degli stipendi dei manager, anche se Moretti di nuovo è tornato sul tema e adesso lo ascolteremo. Ha detto che nel presentare il piano industriale dell'FS, che se c'è un'alternativa migliore ben venga per il suo posto alle Ferrovie dello Stato, vediamo se Renzi saprà convincermi e quant'altro. Però da questo punto di vista in realtà ci sono due passaggi di cui ci occuperemo. Uno è quello che è successo al governo, perché in Commissione Senato sulla riforma del Rio, che è quella che prevede l'abolizione delle province, la maggioranza, come il nostro GR vi ha raccontato, è finita due volte sotto per l'assenza di Mario Mauro, l'ex ministro, che è senatore dei Popolari per l'Italia. Il testo però poi è approvato e andrà in aula. In realtà i quattro voti di scarto. In realtà su questo continua anche la definizione, alcuni dicono scontro, non è scontro, in realtà è l'attesa, nel caso specifico di Confindustria, per capire quali misure arriveranno dal governo Renzi. Oggi Squinzi ha ribadito che per ora si è visto solo il decreto lavoro, siamo in attesa di vedere le altre realizzazioni, e il ministro Guidi ha detto, Federica Guidi ha detto giusto il pungolo, la sollecitazione che arriva da Confindustria a non abbassare la guardia sulla necessità di fare in fretta. E poi le dichiarazioni del ministro Madia e la sorpresa dei sindacati. La CGIL dice addirittura i sindacati hanno il ministro ha fatto una marcia indietro. Mi riferisco alle dichiarazioni del ministro Madia sui prepensionamenti per aiuto ai giovani. Ha definito però sbagliati gli 85.000 esuberi come cifra per gli esuberi complessivi della pubblica amministrazione. E la cosa che ha fatto un po' così saltare sulla sedia i sindacati è stata questa frase: non è detto che vi saranno dei tavoli con i sindacati, abbiamo tempi molto stretti, però siamo aperti alla collaborazione sulla riforma. Questo per quello che riguarda la politica italiana, poi la politica economica italiana. Per quello che riguarda la borsa invece, più 0,76% Milano, più 1,45% Parigi e anche Francoforte, più 1% Londra, l'America più 0,30%. Perché lo dico? Perché dopo il calo di ieri, oggi tutte le borse sono in recupero. Da noi di negativo in maniera significativa c'è soprattutto la Popolare di Milano meno 3,43%, il Banco Popolare meno 1,70%. E la Popolare Emilia Romagna meno 1,60%, quindi le banche popolari oggi sono sotto pressione. Cede anche il Monte dei Paschi, meno 1,5%. Sul Banco Popolare gli investitori si preparano all'aumento di capitale, lo dico subito, che è atteso per lunedì. Bene invece tutti gli altri titoli, a partire da Luxottica, di cui parleremo, più 4,70%. Il numero uno Andrea Guerra è in questo momento a San Francisco, abbiamo cercato di raggiungerlo, ma è impegnato in un insieme di incontri, anche alla luce di quanto ha annunciato, ossia che Google ha stretto un accordo con Luxottica per quello che è la nuova frontiera, stando a quello che capiamo, di Google, quindi i Google Glass, questi occhiali di cui molto si è parlato, che ti permettono di essere interattivo mentre ti sposti, addirittura di avere il profilo delle persone che incontri, dei luoghi che attraversi. Ha fatto un accordo con Luxottica perché ritiene che Luxottica sia, e lo è a tutti gli effetti, il leader mondiale nel settore del design, della produzione e della distribuzione di occhiali sia sportivi che di lusso. A dimostrazione questo che quando poi l'industria italiana è posizionata nelle fasce non solo alte come prezzo, perché Luxottica non fa con i vari marchi solo fascia alta, ma è posizionata nella fascia alta della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione, non c'è barriera che tenga, gli accordi si fanno con i migliori. Questo lo dico a chi ancora sostiene che in realtà le nostre imprese abbiano difficoltà. No, quando le nostre imprese hanno investito e sono internazionalizzate, come Luxottica è, i risultati si vedono. Dicevo della borsa, oltre a Luxottica molto bene anche Unipolsai, più 3,20, Exor più 2,5, A2A più 2%, Jux più 1,70 come Tenaris, TOZ più 1,60, CNH più 1,5 come Saipem e Generali, bene anche Pirelli più 1,30, Buzzi-Unicem più 1,1 come Atlantia ed Enel. L'ultimo numero è quello come sempre per i vostri SMS, 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Guarda le altre notizie in breve, la fiducia dei consumatori americani è salita ai massimi dal gennaio del 2008, quindi prima del crack Lehman Brothers, l'economia era già in difficoltà, però insomma un dato molto significativo, 82,3 punti, ed è un dato superiore alle attese degli analisti, quindi l'andamento dell'economia americana, soprattutto dei posti di lavoro che vengono creati, sta riportando la fiducia nei consumatori. Lo dico perché è attraverso il recupero dell'economia e dei posti di lavoro che si genera fiducia, oltre che con politiche economiche che abbiano anche visione e non pensino solo al deficit al 3%, al 2,9, al 3,1. L'agenzia di rating, restiamo sui temi internazionali, l'agenzia di rating Standard & Poor's, quella che dà i voti ai paesi, ai governi, oltre che ai debiti dei privati, ha declassato da BBB a BBB- il voto sul Brasile, sottolineando che la combinazione tra una bassa crescita economica e uno slittamento finanziario portano ad avere, riducono i margini di manovra del governo nei confronti di eventuali tensioni o shock esterni. Il Brasile ha reagito descrivendo l'abbassamento di voto di Standard & Poor's come infondato alla luce delle condizioni economiche del paese. Allora, l'ipotesi, veniamo all'Europa, che la Banca Centrale Europea possa abbracciare il quantitative easing. Cos'è? È il modo in cui l'America sta pompando dollari da anni nell'economia americana, $85 miliardi al mese, scesi poi a 65, scesi con l'ultima misura della Fed a 55, e il modo in cui lo fa la Fed è sostanzialmente lo Stato americano emette dei titoli di Stato che vengono comprati subito dopo dalla banca centrale, e in questo modo, comprandoli, diciamo, non è proprio così, ma stampa moneta e immette liquidità sul mercato. Ecco, questo si chiama quantitative easing. Dicevo, l'ipotesi che lo possa fare anche la Banca Centrale Europea, ha detto il presidente della Bundesbank, che ha la fama di essere un falco, ma ha detto non è escluso del tutto, non è fuori dalla questione in generale. Sarebbero problematici perché gli acquisti di obbligazioni proporzionali alle quote del capitale della Banca Centrale Europea creerebbero qualche problema, ma faccio notare che fino a poco fa la stessa Bundesbank, e quindi la Germania, escludeva categoricamente che l'approccio statunitense potesse essere seguito anche dall'Europa. Il cambio euro su dollaro, oggi anche il vicepresidente della Commissione Europea Tajani dice che il cambio 1,4, oggi siamo a 1,37, comunque vicini a 1,4, danneggia l'economia di Spagna, Italia e Francia, e alla lunga danneggerà anche l'economia della Germania. Però sui temi europei segnalo l'intervista oggi a Mix24 con Giovanni Minoli di Romano Prodi, che sul rischio che sta correndo l'Europa, soprattutto l'Europa del Sud, ha detto bisogna andare avanti perché altrimenti, soprattutto la parte del sud dell'Europa, e in generale l'Europa, se salta l'intero impianto e progetto, non avranno più niente da dire per secoli e secoli. Oggi bisogna andare avanti, sennò la storia ci uccide. Tutto qua, non possiamo mica pensare che nella globalizzazione del mondo, che è diventato così grande, i singoli paesi possano resistere. Se lo vogliamo fare, se possiamo benissimo pensare di tornare indietro, con il che è finita, con il che l'Europa, i paesi europei non avranno più niente da dire per secoli e secoli. Cosa penso io? Penso che l'Italia da sola difficilmente potrà essere ascoltata, ma in questo momento, oserei dire fortunatamente, anche se la parola, l'avverbio non va bene, abbiamo altri paesi che condividono i nostri problemi, cioè la Spagna e anche la Francia stessa, e quindi bisogna avere una politica economica alternativa volta allo sviluppo. Renzi sta facendo questo nella giusta direzione, abbiamo però bisogno di alleati, perché se no, se picchiamo i pugni sul tavolo da soli ci rompiamo le dita e non otteniamo nulla. Così appunto Romano Prodi. Devo dire che oggi anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha detto che se si vuole contenere l'euroscetticismo dilagante, e bisogna trovare la risposta nella politica e non nella tecnocrazia. Mi sembra che a questo punto siano quasi tutti d'accordo, quelli che non sono per la fine dell'euro e la fine dell'Europa, ma per un'altra Europa, nel dire che l'errore più grosso è stato in questi anni affidare la gestione dell'Europa a tecnici. Io capisco, vedete, l'Italia, la sua ruolo del baratro, è vero, e noi stessi accogliemmo, diciamo, con in maniera positiva quello che fu la prima reazione dei mercati e l'arrivo di Monti, ma dopodiché il vero errore di Monti, ma non solo, è di aver fatto di aver avuto una linea troppo legata ai tecnicismi dell'Europa, ai ragionierismi dell'Europa. Dov'è il progetto finale? Cioè la Germania, ma anche gli altri paesi, che cosa vogliono che diventi questa Europa? Che sia il vaso di coccio quando l'America deve svalutare il dollaro e noi ci becchiamo un dollaro più basso e l'euro quota 1,38, 1,40, che sia l'Europa che primeggia nei conti pubblici quando altri paesi, penso agli Stati Uniti e al Giappone, hanno come priorità la crescita e l'occupazione dell'economia? Chiedo. Spostiamoci sull'Italia e restiamo però con il presidente Confindustria Squinzi, che oggi ha detto, per quello che riguarda il governo, ho visto solo il decreto lavoro, siamo in attesa di vedere le altre realizzazioni del governo, lo ha detto al microfono della nostra Valeria De Rosa. Siamo in attesa di vedere le realizzazioni, semplicemente questo. L'unica cosa che posso dire è che come realizzazioni ad oggi abbiamo visto solo il decreto sul lavoro preparato dal ministro Poletti, che nella formulazione finale che va all'esame del Parlamento ci trova in accordo. E su questo il ministro, lo anticipavo, il ministro Federica Guidi, il ministro dello sviluppo economico, sempre al microfono della nostra Valeria De Rosa, ha detto le sollecitazioni a non abbassare la guardia sulla necessità di fare in fretta, arrivate dal presidente Confindustria Giorgio Squinzi, sono un giusto pungolo all'attività di governo. Credo che abbiamo iniziato a dare appunto qualche segnale sul fatto che il mondo delle imprese e soprattutto la parte di sostegno alla piccola e media impresa, ma non solo alla piccola e media impresa, ma insomma alla competitività del nostro sistema industriale, è una delle priorità di questo governo. Il governo si è insediato da poco più di un mese, quindi fa bene il presidente Squinzi a, diciamo, sollecitare atti e risultati. Credo che, come dire, siamo appena partiti, chiederei qualche settimana in più per poter essere giudicati con un minimo più di tempo, però, come dire, la sollecitazione a non abbassare la guardia sulla necessità di fare in fretta la ritengo un giusto pungolo a mantenere alta l'attenzione. Noi ci siamo già impegnati, ad esempio, per quello che riguarda il mio ministero, a partire dal primo di maggio a mettere in campo un cantiere con una serie di misure per l'abbattimento del costo dell'energia. Come voi ben sapete, ci sono una serie di atti che vanno fatti, ci sono una serie di leggi che vanno probabilmente anche riviste, c'è un concerto di norme che non si può mettere in piedi nel giro di 5 minuti. Qualche settimana credo che sia realistica come tempo e credo che sia comunque un orizzonte temporale sufficientemente breve per essere consistenti rispetto alle necessità di velocità e di rapidità che il governo ha dichiarato di essersi preso come impegno verso il Paese. E veniamo allora ai fatti concreti, perché il ministro al lavoro Giuliano Poletti, nel corso dell'audizione in Commissione Lavoro alla Camera, dice, attenzione, anzi ribadisce, perché l'aveva già detto, manca 1 miliardo per coprire la cassa integrazione in deroga, quella che viene applicata a chi non ne avrebbe diritto, ecco perché si chiama in deroga, quindi viene estesa anche a chi non era previsto, per essere più corretti. Dicevo, manca 1 miliardo di copertura per la cassa integrazione in deroga, è un problema già posto all'attenzione del governo, ne fa parte anche lui, alla sua attenzione, quindi bisognerà mettere mano rapidamente a questo strumento e alla sua copertura. Il 2014 sarà ancora un anno di grande sofferenza, indipendentemente dalle considerazioni legate al PIL, e quindi traduco, anche se il PIL crescerà un po' quest'anno, più 0,6, più 0,5, più 0,7, lo sappiamo già, la disoccupazione continuerà ad aumentare per due motivi. A, perché la cinghia di trasmissione è più lunga, per cui quando riparte l'economia ci vuole più tempo perché riparte l'occupazione. B, perché, e forse il punto più importante, una crescita dello 0,6 non ti genera nuova occupazione. Se va bene ti permette di arrestare un po' l'emorragia, ma è difficile che con lo 0,6 tu ti metta a riassumere. Allora sentiamo il ministro Poletti su questo. Io credo che il 2014 sarà ancora un anno di grande sofferenza e ce lo dice un dato. Ce lo dice il dato secondo cui, indipendentemente dalla considerazione che noi facciamo sulle dinamiche del PIL, più 0,6, più 0,8, più 1, i numeri sono lì. Ed è chiaro che è meglio più 1 che più 0,6, adesso per capirci, per dirla molto semplicemente. Però la dinamica dell'occupazione per il 2014 continuerà a essere una dinamica molto, ma molto pesante. Su questo sui temi del lavoro, è intervenuto anche il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia. Allora, ha detto, se si parla di 85.000 esuberi si utilizza un numero e una terminologia assolutamente sbagliati e distorti anche rispetto al piano Cottarelli. L'idea sarà quella di provare ad avere delle uscite anche con dei prepensionamenti, ma tutto questo per rimettere energie nella pubblica amministrazione. Allora, questo programma non ama prendersela con, non ama fare il forte con i deboli con i forti. Però devo dire una cosa, ministro Madia, attenzione che quando parliamo di prepensionamenti, esuberi, dopo quello che è successo con la riforma Fornero, andiamoci cauti, perché vere uscite con prepensionamenti, Cottarelli ha dato una stima che era 85.000, forse è meglio stare zitti piuttosto, se non si sa che cosa dire, mettiamola così, lo dico con massimo rispetto, anche perché poi il ministro è intervenuto nel rapporto con i sindacati. Cosa ha detto il ministro? Ha detto, non è detto che vi saranno dei tavoli con i sindacati, perché abbiamo tempi molto stretti, questo a chi le chiedeva di un confronto con le parti sociali sulla riforma dello Stato, sulla riforma della pubblica amministrazione, non lo so, può anche darsi, ma non per forza. Ecco, sono queste magari le frasi che posso dire io, ma non un ministro, piuttosto rimando al Presidente del Consiglio, vedremo. Abbiamo chiesto, aggiunto il ministro, ai sindacati proposte oltre al piano Cottarelli. Per quello che riguarda lo stipendio dei manager ci sarà sicuramente una proposta del governo sui tagli, scusatemi, ai super stipendi dei manager pubblici. E ancora, il tetto agli stipendi nella pubblica amministrazione è ora tarato sul primo presidente di Corte di Cassazione, se non ricordo male sono 285.000 euro. vado a memoria, ho già fatto una circolare dove tra l'altro è esplicito che in questo tetto, facendo riferimento a una norma del governo Letta, debbono essere cumulati anche tutti i trattamenti pensionistici, compresi i vitalizi. Se uno avesse un vitalizio perché ha fatto il deputato mentre ricopre poi un'altra carica nella pubblica amministrazione. La polemica con Moretti, ha continuato la Madia, trovo sia sbagliata per l'importanza del tema. È sbagliato mettersi a discutere delle singole persone. Questo in un convegno che si chiamava "I manager pubblici che vogliamo". Però Moretti non ha abbassato, diciamo, il tenore, perché ha detto oggi: se c'è un'alternativa migliore al mio nome, ben venga. La sfida è valorizzare appieno il capitale investito del gruppo, che è dello Stato e della collettività. Questo nel presentare il piano industriale. E ancora aggiunto: vediamo se Renzi, se la proposta di Renzi saprà convincermi, farò le mie valutazioni. Da quando sono stato messo a questo posto ho avuto solo riduzione di stipendio. Credo di essere l'unico, perché inizialmente i miei pigliavano circa 1,6 milioni. Ha iniziato 1,1 milioni, poi sono passati a 950, poi sono arrivati a 850, a agosto mi hanno tagliato altri 25-30 mila euro. Quindi cosa volete? Credo invece, non è tanto quello che è il fatto personale, il problema è un altro, è che una leva fondamentale di qualsiasi impresa è la struttura retributiva, la leva retributiva, perché il valore delle persone su un mercato complesso, qui vedete il vostro collega tedesco vi viene a chiedere cosa volete fare, vuol dire che la competizione c'è e noi non è che possiamo banalizzarla. Ripeto, l'azienda non è mia, sarebbe un peccato che un'azienda che era sull'orlo del fallimento e che adesso è una grande cosa per il paese venisse ad essere ributtata indietro. Ne perderebbero i cittadini italiani. Aspetterò, come mi ha chiesto giustamente il presidente Renzi, di vedere la proposta, l'apprezzerò, ci saranno delle riduzioni, valuterò, come dice lui mi saprà convincere. Io continuo a ritenere, è giorni che ne parliamo, da quando Moretti si è uscito con quella frase, a mio avviso improvvida, perché ha spostato il tema sulla retribuzione dei manager, che pure è un tema, va valutata, però sono manager che gestiscono decine di migliaia di persone, che hanno grosse responsabilità penali, civili, che devono scegliere strategie, che devono scegliere e gestire decine di milioni di euro e centinaia in alcuni casi di investimenti, che hanno un mercato perché ce l'hanno, piaccia o non piaccia ce l'hanno, che hanno dei corrispettivi all'estero e quindi il numero uno delle ferrovie tedesche che guadagnano, l'abbiamo detto quasi due volte Moretti, hanno i corrispettivi e vedono quello che vengono pagati i loro omologhi in società estere. Si confonde il ruolo dei manager, che poi devono portare un risultato, utili, dividendi per lo Stato, servizio per la collettività, e che dovrebbero essere non inamovibili. Infatti devo dire che non sempre avviene, ma tendenzialmente all'ENI, all'Enel, in Finmeccanica, alle ferrovie, adesso Scaroni, Conti, Moretti e 2-3 mandati che sono lì, però cambiano. Ecco, si confonde questo con i dirigenti della pubblica amministrazione, che sono realmente inamovibili, che stanno anche 20 anni nello stesso posto, che sono pagati, quelli di prima fascia, il 12% più della media europea, quelli di seconda fascia il 106% più della media europea, che non hanno concorrenza, che non rispondono di nulla, che non hanno corrispettivo e tra l'altro che gestiscono la pubblica amministrazione nel modo in cui vediamo e sappiamo, e che spesso, chiudo, oppongono una resistenza alla cosiddetta palude, su cui secondo me fa benissimo Renzi a scagliarsi e si gioca buona parte della sua scelta politica, e che spesso pongono resistenze perché giustificano con le resistenze il loro ruolo, il loro esistere. Secondo me la colpa più grossa di Moretti è di aver fatto un gran calderone tra lo stipendio dei manager che sono sul mercato e lo stipendio dei dirigenti pubblici che non sono sul mercato e non hanno nessun criterio di valutazione. Ieri abbiamo raccontato che il 90% dei dirigenti pubblici di questo paese, che sono 232.000, un esercito, il 90% raggiunge gli obiettivi e quindi si becca il premio. Cioè, dei geni. Comunque, sentiamo sempre Moretti su eventuali proposte che gli sono arrivate dall'estero e anche sul giudizio sull'operato del governo. Tutto il resto non l'ho detto io, l'avete scritto voi. Io non ho mai detto che vado in Germania o in Francia. Anche perché, come noto, sono molto italiano, ho cercato di lavorare per l'impresa italiana, vorrei continuare a farlo. Per quanto riguarda la politica del presidente Renzi, credo sia una politica che cerchi di stimolare in maniera energica un paese che ne ha bisogno, e credo che noi dovremmo sostenere questa politica, perché la sfida che c'è in questo momento a livello internazionale è potente. L'Italia, se non si trova unita nel poter rafforzare gli strumenti per affrontare questa sfida, beh, rischia di soccombere. Vedo molti messaggi sia su Facebook che al 349-238-6666 sul tema di Moretti. 800 e passa 1000 euro sono troppi. Ho capito. Sto solo dicendo che il suo equivalente nel Deutsche Bahn guadagna più del doppio. Devo dire che io ho ritenuto sempre più scandalose le buone uscite legali di Cimoli e Catania, che hanno lasciato l'FS in ginocchio. Non me ne frega nulla, poi uno può dire ma è colpa mia, perdevano 2 miliardi l'FS e hanno beccato 1 milione di euro legali, perché lo Stato aveva firmato quei contratti. Quelle le ho trovate scandalose, perché un manager che lascia un gruppo, questo vale anche per il privato, che lascia un gruppo in ginocchio, non me ne frega nulla, non deve beccarsi a buona uscita, se no che cavolo di dirigente, di manager è? Se ottiene risultati bene, se no niente buona uscita. Quelle le ho trovate scandalose, ma lì la polemica non era ancora montata, o meglio, montò a poco. Comunque, ultimo passaggio di Moretti, che oggi ha annunciato nuovi treni da 350 km all'ora, che i primi ETR 1000 saranno in servizio per l'Expo. La flotta complessiva del nuovo Frecciarossa sarà di 50 treni che avranno una velocità commerciale di 350 km orari contro i 300 raggiunti adesso dai Frecciarossa in servizio tra Milano e Salerno. Prevedono al 2017 le ferrovie dello Stato ricavi per 9 miliardi e mezzo, quindi in aumento rispetto agli 8 miliardi e 3 di fine 2013. Il MOL, il margine operativo lordo, passerà da 23 al 26%, quello netto dall'8 all'11%. Gli investimenti sui treni saranno di 1,6 miliardi per gli ETR 1000, di 3 miliardi per il servizio universale, quindi gli altri treni. E la posizione finanziaria netta salirà da 8 miliardi e 2 a 8 miliardi e 8, e l'ipotesi è che la quota delle ferrovie dello Stato nel trasporto ad alta velocità passi dall'81,8 all'83,8%. Dice poi Moretti: attenzione, fare l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato è una delle realtà, dei ruoli più difficili nel panorama italiano. Se non vi fosse stato un piano, tra il panorama manageriale, se non vi fosse un piano di risanamento, le ferrovie sarebbero fallite. C'è tutta la squadra di vertice del gruppo Ferrovie dello Stato, presidente Cardia, con tutti gli amministratori legati delle grandi società e i direttori centrali di una delle aziende più grandi d'Italia. E presentiamo il piano industriale. Non a caso lo chiamiamo industriale, perché è una realtà industriale. Qui non stiamo a poltrire negli uffici. Questo è un lavoro tra i più duri in senso assoluto che si possa pensare nella realtà italiana come nella realtà in giro per il mondo. È stato questo un periodo di grande crisi nazionale e internazionale, e il gruppo Ferrovie dello Stato si è presentato agli inizi di questa crisi, 2006-2007, un anno prima della profonda crisi, in condizioni drammatiche, e quindi è stato necessario dare un impulso forte, fortissimo, per poter fare una riconversione industriale con un drammatico risanamento, pena il fatto che il gruppo sarebbe fallito, come nello stesso periodo è successo per tanti gruppi di trasporto di terra, di aria e di mare. Qui quasi mussoliniano, di terra, di aria e di mare, però è vero, nel senso che le FS sono una storia positiva, l'Italia no. Allora, c'è manager e manager. Comunque dai, pubblicità, meteo, poi faccio ascoltare anche la risposta della CGIL alle dichiarazioni della Madia. Non ce l'ho con la Madia. Dico solo che se si parla per dire tutto e il contrario di tutto, è meglio star zitti delle volte, perché poi si innescano polemiche di cui questo paese non ha bisogno. Fate le cose e poi ce le commenterete. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, il meteo. Focus Economia. 7:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dunque, c'è chi mi scrive: ma se Totti e Buffon guadagnano 5 milioni è giusto pagare Moretti? No, 850 mila euro? No, non sono d'accordo su questo, perché un privato fa quello che vuole, ci sono i presidenti delle società, pagano i giocatori quello che vogliono, poi i soldi ce li perdono loro. Però poi li devono perdere, no? Che facciamo ogni volta la sanatoria per i buchi di bilancio della società di calcio. Detto questo, no, qui si sta ragionando su un manager pubblico che ha un mercato, anche il manager pubblico, quindi non esageriamo nel fronte opposto. E io sono d'accordo invece con chi dice: giudichiamo Moretti per quello che ha fatto sulle ferrovie, per esempio. Allora, molti mi scrivono che il trasporto pendolari fa schifo, ne abbiamo parlato molte volte con Moretti, lui dice che sono le regioni che devono dargli i soldi. Io penso che si stia creando, anzi si sia già creata una rete ferroviaria di serie A e di serie B, per cui poi le tratte locali sono lacunose. Eravamo a Bari la settimana scorsa a raccontare i problemi del trasporto del cargo per tutta la Puglia, perché l'accusa dei privati è che le ferrovie fanno resistenza nell'aprire la rete. A queste cose mi interessa ragionare sulle ferrovie dello Stato, sul manager, non se prende 8,50 o 500, perché poi abbiamo visto gente prendere di meno e fare distruzioni di valore, gente prendere di più e portare utili e dividendi per la collettività. Dopodiché andrei a guardare anche altri stipendi delle partecipate. Mi scrive un ascoltatore che c'è un segretario comunale di un paesino di 20.000 abitanti che arriva a 180-200 mila euro l'anno. Ecco, questo mi sembra scandaloso per la responsabilità di un segretario comunale o di alcune partecipate dello Stato, di cui poi racconteremo. No, vorrei però fare ancora ascoltare la replica alle parole della Madia, che ha detto: beh, vediamo con i sindacati, non so se faremo il tavolo, può anche darsi, ma non per forza, e magari stare zitti, no? La replica del segretario della CGIL alla funzione pubblica, e quindi Rossana Dettori, intervistata dal nostro Simone Spezia durante Effetto Giorno. Io sono sufficientemente allibita, cioè nel senso che io speravo davvero che ci fosse un cambio diverso rispetto al lavoro pubblico. Noi eravamo disponibili a cambiare verso, ma mi pare che stiamo in perfetta continuità, nessuna novità nelle dichiarazioni della Ministra, perché la mobilità era già prevista, i prepensionamenti erano già previsti, gli esuberi c'erano già, poi può essere sbagliato il numero, ma tutti continuano a parlare di esuberi. E la riforma non si fa contro i lavoratori pubblici, io non so, credo che sia opportuno, ci era sembrato all'inizio che la Ministra fosse disponibile, invece provare a ragionare insieme su come si riforma la pubblica amministrazione. Ribadisco, noi siamo non disponibili di più a ragionare su come riorganizzare i servizi pubblici per dare risposte ai cittadini, perché solo facendo questo poi siamo in grado di dire se funzionano quelle dotazioni organiche oppure no. Sul fare entrare i giovani, io davvero la dico così, si sponda una porta aperta, però non è che si possono contrapporre i lavoratori più anziani a quelli giovani, perché davvero si corre il rischio di innescare una dinamica conflittuale fra generazioni. Prepensionamenti, come? Chi li paga, con quali costi, con quali penalizzazioni? Io penso che dovremmo ragionare anche di questo, perché sennò diventa un ulteriore peso. Ha detto allibita anche per quello che dice sul tema del confronto, Madia, che dice insomma non è detto che avremo il tempo di confrontarci. Sono allibita a partire da quello, perché in un incontro che abbiamo già avuto singolarmente come organizzazioni sindacali, la Ministra ci ha raccontato cosa aveva in mente di fare, noi abbiamo anche provato a dire che cosa pensavamo bisognava fare nella pubblica amministrazione, mi era sembrato di aver capito che dopo che aveva finito di incontrare le singole organizzazioni per conoscerci, perché non ci conoscevamo, avrebbe aperto un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali. Quindi sì, questo cambio di rotta, di posizione mi lascia allibita, perché non potremmo dare, non siamo un ostacolo alla riforma della pubblica amministrazione, davvero potremmo essere d'aiuto, anche perché abbiamo unitariamente predisposto già un documento che non dice che abbiamo sempre ragione, che dice che siamo disponibili a riorganizzare, a chiudere e a rilanciare i servizi pubblici complessivamente. Ok, allora abbiamo detto che la Madia forse, se non sa, può anche aspettare prima di parlare, perché poi si generano polemiche interminabili. Però una cosa me la fate dire anche la CGIL, cara Dettori, però lei parla come se i sindacati, la CGIL ma anche la CISL, la UIL, che nel pubblico impiego hanno grossa presa, non avessero responsabilità per lo stato in cui versa il nostro pubblico impiego, anche sui dirigenti del pubblico impiego. Ma insomma, voi da sempre siamo per la mobilità, siamo per tutto, e io non mi sono accorto di tutta questa disponibilità. Qualche responsabilità assumetevela anche voi, perché sennò sembra che improvvisamente il governo dica, e dopodiché sì, si può fare una concertazione per un tavolo, discutere, poi il governo decide, perché voglio dire, su questo io la mobilità nel pubblico impiego non l'ho mai vista, nonostante le promesse dei sindacati, cioè gente che si sposta da Roma in periferia o dove c'è bisogno, non l'ho mai vista, o l'abbiamo vista pochissimo. I sindacati ogni volta che parla di pubblico impiego sono disponibilissimi a tutto e poi non cambia nulla. Allora, per favore, se si è arrivati a un'esasperazione di questo, forse la colpa è anche della rigidità sindacale, ripeto, non solo della CGIL, anche della CISL e della UIL, in questi anni in cui, siccome diciamola tutta, il pubblico impiego è bacino elettorale di consenso per i sindacati, ogni volta che si tentava una riforma del pubblico impiego si alzavano le barriere di fatto, perché la riforma non è mai stata fatta. Allora questo è colpa solo dei governi, è colpa anche dei sindacati? La risposta non ce l'ho, anzi ce l'ho, ma mi sembra implicita. Intanto il traffico e poi la borsa. Focus Economia. A 7:51 minuti, adesso andiamo sulla borsa e poi torniamo anche sui temi che stanno attraversando il governo. Sì, insomma, vedo molte risposte. Ci torneremo anche sugli stipendi e anche sul ruolo dei sindacati, dai, per favore. Ma insomma, ognuno si assume le sue responsabilità. Dai, per favore. I sindacati da sempre siamo aperti a tutto, non è cambiato nulla nel pubblico impiego, anche a danno dei bravi dipendenti del pubblico impiego, perché il merito i sindacati di fatto non l'hanno mai voluto introdurre, se no dovresti introdurre il tema dei licenziamenti anche nel pubblico impiego, a partire dai dirigenti. Di cosa stiamo parlando? Su. Provate a toccare il tema dei licenziamenti del pubblico impiego in base al merito o a discrezionali, o il tema del raggiungimento degli obiettivi nel pubblico impiego. Perché non sentite i sindacati dire che è scandaloso che il 90% dei dirigenti abbiano raggiunto gli obiettivi ogni anno, che non sta né in cielo né in terra? Perché non sentiamo i sindacati dire che bisognava imporre la mobilità, se no sei fuori, non possiamo avere il duplicamento delle funzioni tra Stato, Regioni, Province e Comuni. Non vuoi trasferirti come avviene nel privato? Bene, lascia il posto di lavoro, se questo vale per tutti. Perché sennò il resto sono chiacchiere e distintivo. La borsa più 0,95% Milano, più 1,60 Parigi, più 1,60 Francoforte, più 1,30 Londra, più 0,40 l'America. La Pop Milano perde il 3,36%, la Pop Emilia Romagna l'1,80%, poi Terna e Monte dei Paschi deboli meno 0,70%, molto bene Unipolsai più 4,17% e Luxottica più 4%. Dopo che Google ha scelto proprio Luxottica per i Google Glass. Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, deboli le banche popolari, ma soprattutto la Pop Milano. Qui c'è un giudizio negativo, il Banco Popolare poi si è ripreso molto perché cedeva, chiuso in positivo dello 0,36%. E allora facciamo Pop Milano da un lato e Unipolsai e Luxottica dall'altro. Sì, la Pop Milano è stato appunto il peggior titolo sul FTSE MIB, ha perso il 3,36%, qui come dicevi tu c'è un giudizio di Kepler Cheuvreux che ha abbassato la raccomandazione consigliando di ridurre l'esposizione sul titolo, soprattutto perché secondo gli analisti attualmente il titolo è prezzato correttamente dalla borsa in base alle prospettive di utili 2015-2016, quindi secondo gli analisti il titolo non potrà salire oltre questa soglia, e soprattutto poi come segnalano il rischio di diluizione in vista dell'aumento di capitale da 500 milioni che partirà a maggio, e quindi al momento consigliano di ridurre l'esposizione sul titolo. Il Banco Popolare, che segnalavi anche tu, era il peggiore, poi è migliorato. Qui si tratta di movimenti tecnici in vista dell'aumento di capitale che partirà in questo caso lunedì. Per quanto riguarda i titoli che sono andati bene, Unipolsai è tornata a correre dopo i realizzi di ieri e continua a beneficiare dei conti 2013 e dell'annuncio del dividendo, è salita oggi del 4,17%, mentre per quanto riguarda Luxottica più 3,95%, è proprio l'annuncio arrivato nella serata di ieri della partnership con Google per realizzare la nuova generazione di Google Glass. Allora, gli altri titoli dopo il GR24, faccio poi notare una cosa, vabbè, poi ci torneremo. Anche le poste inglesi fanno dopo la privatizzazione dei tagli, e sapete da dove partono, però, perché gli inglesi sono seri? Partono dallo staff manageriale. Poi ne parliamo, borsa e poi le traversie di Renzi. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo adesso l'approfondimento di borsa e poi passiamo anche all'analisi a cavallo tra politica ed economia. Oggi, come ricordava di nuovo il nostro GR24, il governo è andato sotto su una riforma importante, però andiamo con ordine. Eravamo ancora con Paolo Paronetto e dopo aver commentato da un lato Popolare di Milano e dall'altro Unipolsai Luxottica, oggi recupera un po' terreno Iux, che è da 20 giorni che perde, perso quasi il 20% di Luxottica, abbiamo detto. Vorrei andare ancora su altri titoli: Mediaset più ne 60, Buzzi Unicem più ne 60 come CNH ed Enel, Tenaris più ne mezzo come Generali, Atlantia più ne mezzo, Tods più 1,40%, Prismian pure, Pirelli più 1,36%. Per quello che riguarda i titoli fuori dal listino, Ansaldo, STS, abbiamo visto in luce, e Bialetti. Sì, per quanto riguarda Ansaldo STS, il titolo ha frenato sul finale. Sì, proprio nel finale. Ha chiuso a più 0,54 dopo essere stato in gran rialzo per tutta la giornata, e continua a beneficiare, così come aveva già fatto ieri, dell'offerta per la realizzazione della metropolitana di Lima. E Ansaldo, tra l'altro, in consorzio con Salinia Impregilo, ha presentato l'unica offerta, quindi è molto probabile l'assegnazione della commessa, che vale complessivamente oltre 5 miliardi di dollari, quindi un passo avanti importante per gli obiettivi e di ordini 2014 del gruppo. Mentre per quanto riguarda Bialetti, è stato uno dei migliori titoli dell'intero listino, il secondo miglior titolo, ha chiuso in rialzo dell'11,86%. La società ha annunciato il rinvio dell'approvazione del bilancio e la contemporanea richiesta di una proroga della moratoria sul debito alle banche creditrici, e diciamo che il mercato lo vede questo come un ulteriore passo verso finalmente questo accordo sul debito con le banche. Ha annunciato che entro il 22 maggio dovrebbe appunto chiudersi questa fase, quindi approvare definitivamente il bilancio. E ricordiamo che il titolo è salito dall'inizio dell'anno del 234%, proprio in attesa di questo accordo con le banche, che dovrebbe di fatto sancire il rilancio del gruppo. Allora, per quello che riguarda invece il Monte dei Paschi, al di là della variazione del titolo oggi in borsa, faccio notare che Monte dei Paschi, che perde lo 0,70, ha collocato, e non capitava dal 2012, ha collocato un'obbligazione a 5 anni per 1 miliardo di euro e ha avuto richieste per 3,5 miliardi, quindi ottima la domanda. Il rendimento è 200, secondo fonti finanziarie, 275 punti base sopra il mid swap. Tu parlavi anche invece delle banche creditrici. Allora, il capo del Corporate Banking Italia di Unicredit, Alessandro Cataldo, ha detto che sul debito di Sorgenia, 1,2 miliardi, le banche stanno cercando una soluzione condivisa con la CIR della famiglia De Benedetti, che ne controlla la società. Ancora un'altra notizia che riguarda invece la Tirreno Power, chiesta la cassa integrazione ordinaria per 102 operai, mentre, visto che erano notizie che erano uscite dall'apertura del programma, sì, mi fate notare di Dolce Gabbana, è verissimo, c'è anche quella come notizia. Oggi il sostituto procuratore, che il PG di Milano, che rappresenta l'accusa, Gaetano Santamaria, ha chiesto l'assoluzione per gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, condannati in primo grado a 1 anno e 8 mesi per una presunta evasione fiscale. Tra l'altro erano stati condannati assieme al commercialista Luciano Patelli e altri tre manager. La cifra contestata all'inizio delle indagini di 1 miliardo di euro si era poi ridotta con la sentenza a circa 200 milioni di euro. Grazie a Paolo Paronetto, do i migliori e i peggiori però perché mancano. Jeffran più 19,50, Bialetti l'abbiamo commentata, Screen Service più 9%, Digital Brothers più 8,60, Il Sole 24 Ore più 8,50, 5%, invece sul fronte opposto Caltagirone Editore meno 7, Cairo Communication meno 5% e Borgo Sesia, però sul risparmio non convertibile, meno 7,32%. Adesso ci occupiamo dei temi che stanno attraversando il governo, dei temi economici che stanno attraversando il governo Renzi, praticamente sono quasi solo temi economici, però prima vorrei far ascoltare che cosa ha detto oggi nel pomeriggio il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sulle riforme. Ha detto: avanti con le riforme, bisogna non perdere la fiducia che Roma faticosamente ha guadagnato. La fiducia faticosamente riguadagnata non deve essere indebolita dal riaccendersi di timori sulla risolutezza dell'Italia e di tutti i paesi dell'area dell'euro a proseguire sulla strada delle riforme e della responsabilità. Ne sarebbe ostacolato il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, con inevitabili riflessi sul costo del capitale e sugli investimenti delle imprese. Si tratta di un sentiero stretto. Nel percorrerlo si deve certo tenere conto delle necessità di chi più sta soffrendo le conseguenze della lunga crisi e dei grandi cambiamenti connessi con l'apertura dei mercati e con il rapido affermarsi delle nuove tecnologie, cambiamenti rispetto ai quali resta da compiere larga parte del necessario aggiustamento strutturale. Il recupero di competitività potrà essere ottenuto solo con una strategia di riforma articolata e coerente, a cui contribuiscano il settore pubblico, le imprese e il sistema finanziario. Governatore Visco, tutto bene, ma una parolina su quello che ha detto ieri il Fondo Monetario Internazionale, che l'economia italiana non riparte perché c'è il credit crunch delle banche, cioè le banche non prestano. Non sto dicendo che debbano, ma insomma, non so, anche qualcosa che riguardi non discorsi di massimi sistemi, ma il ruolo che hanno le banche nel aiutare gli imprenditori e le famiglie, quelle che appunto vanno aiutate. Mi riferisco agli imprenditori che hanno progetti di sviluppo, lì niente. Ieri il Fondo Monetario è stato netto su questo. La ripresa economica italiana passa anche attraverso la riduzione del credit crunch, quindi della stretta che le banche danno alle imprese. Boom. Allora, c'è chi dice che sulla Madia ho fatto un discorso, un attacco sessista alla Grillo. Ma perché? Ho detto semplicemente che erano così aleatorie, diciamo, le parole del ministro, che forse alle volte è meglio stare zitti, perché se tu dici non è detto che faremo un tavolo con i sindacati, siamo aperti a una collaborazione, ma non è detto che ci siederemo al tavolo. E ancora, se si parla di 85.000 esuberi nella pubblica amministrazione, si utilizza un numero, una terminologia sbagliati, distorti anche rispetto al piano Cottarelli. Mi fate riascoltare la Madia sui prepensionamenti, per favore, un secondo? L'idea sarà quella di provare ad avere delle uscite anche con dei prepensionamenti, ma tutto questo per rimettere energie nella pubblica amministrazione. Allora, questo è un discorso che non vuol dire nulla. Cioè, cosa fai? I prepensionamenti per poi assumere di nuovo? Non mi sembra che sia il piano di spending review. Allora, uno quando non ha, ma questo vale per un uomo, per una donna, per qualunque persona, piuttosto che iniziare con le idee, le ipotesi che poi portano alle repliche, meglio stare zitti. È un invito che abbiamo già fatto altre volte, non c'è nulla di sessista, si figuri. Guido Gentili, my head is a jungle, la mia testa è una giungla, perché insomma, buonasera innanzitutto all'editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Perché allora, oggi il governo va sotto sulla riforma delle province, due volte sotto il testo poi approvato e va in aula, e quella è una cosa. Poi il ministro Madia apre la possibilità di nuovi prepensionamenti per aiutare i giovani a entrare nella pubblica amministrazione, ma nega 85.000 esuberi. È un altro fronte. Nel frattempo ci si mette anche Moretti, io ho detto è sbagliato perché ha creato confusione tra gli stipendi dei manager che hanno un mercato e invece il vero problema, che sono i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, che sono 230.000, tutti raggiungono gli obiettivi, sono inamovibili e vengono pagati il doppio che in Francia, il 100% in più rispetto alla media europea se sono di seconda fascia e via così. E insomma, la polemica con Moretti che continua, e poi l'attesa di Confindustria. Abbiamo ascoltato anche le parole del ministro Guidi, che dice: un pungolo giusto, dateci però tempo. Mi sembra che se uniamo a questo anche il fronte europeo, Renzi stia giocando su non due tavoli, su 10 tavoli, perché poi quando la Madia dice noi sindacati potremmo anche non aprire un tavolo con loro per gli esuberi, i prepensionamenti nella pubblica amministrazione, uno può anche darle ragione, ma apre un nuovo fronte. Dopo l'informazione sul traffico vorrei capire se tutto questo risponde, secondo te, a una logica di andare a creare lo smottamento nel sistema, cioè se tu inizi a attaccare diversi gruppi di potere forse ce la fai, oppure è una logica invece un po' più confusionaria della, non dico la sparata, ma del tentativo di lanciare una cosa, vedere che effetto fa, come diceva Iannacci. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Strade in diretta. Buonasera, per un incidente segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 10, Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Ripercussioni dell'incidente anche per chi proviene dalla A12 Genova-Livorno con code da Genova-Est. Altre code per un incidente sul tratto urbano della 4 a Milano in direzione Brescia, tra Pero e il raccordo di Viale Certosa. Ripercussioni anche sulla 8 Milano-Varese con code da Fiera Milano. Sulla 22 del Brennero code di 2 km per un incidente tra Nogarole e Rocca e l'innesto con la 4 in direzione del Brennero. Code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno per un veicolo fermo in panne tra Ginestra Fiorentina e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno. Sul resto della rete il traffico di tutte le sere a quest'ora con le solite code in uscita dalle città. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Allora, Guido Gentili, troppi fronti aperti oppure diciamo la tecnica di così colpire tanti fronti in modo da mettere in conflitto tra di loro e avere più forza? Ma Renzi, io ho scritto qualche giorno fa che sì. Renzi non si cerca di non farsi trovare, diciamo, mai nello stesso punto, è sempre in movimento, e questa può essere anche, diciamo, una tattica. Certo che di questioni ne ha aperte moltissime e possono essere poi queste questioni che, se non vengono risolte, o almeno se non ce n'è una che viene risolta e che poi dà diciamo lo sprint per risolvere le altre, finisce per essere, rischia di essere una rete che poi lo imprigiona. E quindi è una scommessa ad altissimo rischio questa di aprire così tanti fronti su tutte materie così delicate e anche con una dialettica anche con le parti sociali molto, molto dura su questa, no? Ecco, perché insomma quello che è successo oggi però sul, come dato politico sulla riforma delle province, qualcuno scrive adesso avete cambiato idea sulla riforma sulle province, no, non ho cambiato nessuna idea. Ho detto semplicemente che se si va a vedere la spesa pubblica, quello che ha fatto esplodere la spesa pubblica negli ultimi 20 anni è stata, anzi da metà degli anni 70, è stata la creazione delle regioni più che delle province, ma nessuno. Però dico, il DDL Del Rio non abolisce le province, le svuota in realtà delle attuali funzioni, visto che prende atto che nel 2014 le elezioni provinciali non si svolgeranno più, le trasformerebbe in un ente di area vasta governato dai rappresentanti dei comuni e appartenente all'area e dotato di poche funzioni di pianificazione. Poi istituisce le città metropolitane, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, e uno status speciale per Roma capitale. Ecco, dicevo, quello che è successo oggi, unito anche a quello che ha detto la Madia su Cottarelli e sui prepensionamenti nel pubblico impiego e sui tavoli, cos'è? È semplicemente un incidente di percorso, ma non va letto oltre, oppure il rischio che poi tutti questi fronti aperti non tengano all'esame parlamentare? Beh, quello che è successo oggi in Parlamento è il segnale che quella di Renzi non è una passeggiata. Ora, non è ancora un Vietnam, ovviamente, però è una condizione di difficoltà, perché Renzi ha, come diciamo prima, ha perso così tanti fronti che chiuderli poi adesso non è facile, e quindi ha messo moltissima carne al fuoco ed ha acceso, diciamo, anche nella pubblica opinione una serie infinita di aspettative. Pensiamo a quest'ultima vicenda molto popolare, quella di dire abbassiamo gli stipendi dei manager pubblici. Poi però io direi dei dirigenti prima che dei manager, però. Ecco, e poi dopo bisogna distinguere, però, allora, dirigenti, poi ci sono i manager, ci sono quelli delle aziende quotate, quelle delle aziende non quotate, ci sono quelli delle società controllate dallo Stato a livello locale, oltre 7.000 aziende, come sappiamo. Insomma, le situazioni sono molto differenti. Quindi poi si tratta di incidere col bisturi in queste situazioni, e si tratta di arrivare a una soluzione, perché le aspettative che ha acceso, come ripeto, sono moltissime. Ecco, sì, a mio avviso, lì l'ho già detto, anche Moretti ha contribuito alla confusione, perché andando a porre il tema sui manager e non sui dirigenti, poi si fa di tutto un erba un fascio, non capendo le differenze profonde. Però detto questo, secondo te la sfida più dura sarà riformare la pubblica amministrazione, diciamo, senza i sindacati, o toccare quella che Renzi ha chiamato la palude, e quindi i centri veri di potere della pubblica amministrazione, e quindi io non ce l'ho con tutti i dirigenti, dico semplicemente che se la pubblica amministrazione va così, i primi a dover cambiare devono essere i dirigenti. Stavo leggendo, e infatti adesso la riprendo, una notizia che riguarda le Poste britanniche. Allora, in Gran Bretagna, che ha tanti difetti ma è un paese serio, la privatizzazione della Royal Mail è stato un successo, ma adesso arrivano i tagli. Secondo la BBC 1600 dipendenti rischiano licenziamento, però sapete da dove partono? Soprattutto tra lo staff manageriale, ok? Per risparmiare 50 milioni di sterline l'anno. Ecco dove si deve partire. Dicevo, sarà più difficile la contrattazione, cioè il tavolo, anche se nella maniera onega, sul pubblico impiego, o andare contro la palude dei dirigenti che occupano ruoli di potere? Sarà più difficile andare contro la palude dei dirigenti che occupano posizioni di potere, anche perché poi le due cose finiscono poi per sommarsi, perché la burocrazia significa anche la burocrazia sindacale, poi, quindi rischiano di saldarsi nelle due opzioni di politica economica, quella anche di fare appunto degli interventi sul pubblico impiego, magari senza giustamente usare la carta della concertazione intesa come processo che poi blocca qualsiasi pratica di governo, e quindi rischiano queste due cose di sommarsi, quindi la difficoltà di dialogo con i sindacati da un lato e la resistenza dei burocrati all'interno della pubblica amministrazione. Ecco, il fronte spending review che si lega a tutto questo. Cioè, ma a noi risulta che, insomma, Cottarelli non l'abbia presa bene, non abbia preso bene le uscite di Renzi da Bruxelles, quando ha detto vabbè, quelli sono suggerimenti, però la scelta è politica, alcune cose non le ho condivise. Insomma, è sembrato, diciamo, non esattamente appoggiarlo, ecco. Sì, ci sono anche voci della possibilità che Cottarelli sia sul punto di dimettersi, o comunque abbia minacciato le dimissioni. Non sono ancora, diciamo, sono solo delle voci, non è ancora confermato, però certamente, diciamo, che il Premier ha fatto delle osservazioni molto critiche, non tanto sul lavoro, diciamo, di Cottarelli, quanto sulle conclusioni che aveva tratto Cottarelli, diciamo, della radiografia, diciamo, delle cose che aveva messo nel mirino. Quindi questo è un dato importante, perché perdere ad esempio Cottarelli per strada in questo momento, cioè un ex dirigente del Fondo Monetario Internazionale, su un tema delicato come la spending review, se perdere, più che altro è perdere anche il lavoro fatto fino adesso, devo dire la verità. Esatto. Ora ha ragione Renzi poi nel dire che poi è il governo che decide. Ah, certo, la scelta è politica. E questo è la scelta è politica, e fa bene a dirlo, e lo stesso Cottarelli l'aveva detto. Quindi lui questo fa bene la politica, ad assumersi una volta tanto la responsabilità fino in fondo, però appunto deve farlo su delle basi che abbiano un senso. Mi pare che il lavoro con Cottarelli c'erano parecchi spunti su cui lavorare. Sì, dimmi un'ultima cosa, il ministro Madia faceva meglio tacere oggi, piuttosto che aprire un altro fronte con i sindacati, cioè le cose si fanno e poi si dicono? Anche perché... Sì, beh, anche perché non francamente quello di dire aprire il capitolo dei prepensionamenti per poi dire togliamo alcuni dirigenti o comunque personale della pubblica amministrazione attraverso la carta dei prepensionamenti e reimmettiamo dentro i giovani, detta così sembra appunto un'operazione a somma zero, voglio dire, quindi dovrebbe spiegarlo, ma mi pare che non ci siano ancora gli elementi dettagliare una simile proposta. È col massimo rispetto, è un consiglio: quando non sai ancora, magari taci, soprattutto se hai un ruolo di governo. Lo dico col massimo rispetto verso tutti quelli che ricoprono un ruolo di governo. Grazie a Guido Gentili, giornalista del Sole 24 Ore. È tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto, come sempre, un augurio di buona serata da parte di Sebastiano Brisoni. Radio 24. La passione si sente.